Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. I Magnifici Destini oggi è pronto a seguire l'incanto di una delle voci più intense ed emozionanti del panorama canoro italiano. Una voce che ha dovuto combattere contro la propria timidezza e quella strana paura che spesso attanaglia chi è in possesso di qualità fuori dal comune. Una voce che ha dovuto schiudersi lentamente, per poi sbocciare, prendendo coraggio e aumentando il volume fino a raggiungere il resto del suo paese, l'Italia, e poi il mondo. Una voce che non ha mai perso la spontaneità con cui è nata e non ha mai smesso di cercare una forma, un linguaggio, evitando scelte definitive e affidandosi all'istinto, all'animo, al suono. Una voce che ha un nome solo, che non ha bisogno di ulteriori specificazioni perché appartiene a tutti. Questo nome è Elisa. Io penso di essere una super fan di tutte le cose magiche, però anche in realtà molto concreta. Che è strano, però penso che sia così. Questa storia inizia così, con una contraddizione subito dietro il sipario. È bene mettersi subito il cuore in pace, perché come sia possibile far convivere magia e concretezza nella stessa mente è un mistero che non può essere svelato. Quello che si può fare è ascoltare, seguire il racconto e i suoi avvenimenti, i suoi incontri, le sue svolte, come una specie di favola, una favola che comincia in un paese lontano, al confine tra l'Italia e la Slovenia, al confine tra la magia e la concretezza. Lì comunque c'è qualcosa di un po' misto, di un po' mitteleuropeo. Me ne sono resa conto adesso, perché ho viaggiato magari in altri posti e ho visto la differenza, perché ovviamente nascendo lì per te è normale così. Però molte persone lì, quasi tutta la gente di lì è molto mista, hanno delle radici molto diverse. Io stessa sono un quarto croata, un quarto pugliese, un quarto veneto, un quarto francese, e tantissimi miei amici hanno la stessa storia, chi ha origini russe, chi ha origini croate, slovene o francesi o comunque insomma tedesche anche, perché è proprio un crocevia. Un crocevia. Un posto dove persone diverse e linguaggi diversi si mischiano, spinti dal vento, lasciando qua e là qualche traccia, qualche segno del loro passaggio. Così Sarah Vaughan, Alanis Morissette, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald e Bjork a turno fanno capolino nella vita di Elisa, lasciando cadere note dalle loro canzoni, note che si fissano nella mente della giovane ragazza, la quale risponde dipingendo, danzando e recitando. E suonando, naturalmente. È una specie di scambio continuo che non si limita solo alla forma, ma coinvolge anche il linguaggio. E infatti devo dire che anche musicalmente, quando magari ero piccola, o anche, sì, adolescente, così con i miei amici, andavamo magari a sentire gruppi o i festival in giro, e sentivi comunque gente che magari cantava in italiano, in sloveno, cantava in inglese. Era sempre molto misto, anche a livello di lingue. C'è davvero una gran confusione dalle parti di Elisa. Gente che canta e suona utilizzando linguaggi e strumenti diversi a seconda delle proprie radici. Non deve essere facile venire a capo di quel grande guazzabuglio di musiche. Deve essere un po' come addentrarsi in un labirinto e camminare, cercando di capire la strada per trovare la via d'uscita. Che a guardare bene forse è più vicina di quanto si possa pensare. Sì. ero molto fisica, nel senso magari ballavo, facevo anche, ero estroversa, se magari con gli amici, così. Però ero sempre timida, cioè fondamentalmente, anche molto proprio, estremamente anche. E la scrittura invece era il mio mondo, cioè era il mio modo per provare la libertà. È nelle centinaia di pagine scritte che Elisa troverà la chiave per liberare tutta la sua vocazione e il suo talento. Trascinata dagli scritti di Rudyard Kipling e dalle liriche poetiche di Jim Morrison, a cui si affiancheranno presto il pianoforte e la chitarra, Elisa si addentra nella ricerca e nell'analisi di un'ispirazione che sente crescere dentro di sé, uscendosene talvolta con qualche canzone e componimento musicale. È giovane, non ha ancora 15 anni. Tutto questo mentre la vita fuori sembra scorrere placida e tranquilla. Mia sorella faceva la parrucchiera prima, infatti io lavoravo con lei, tra l'altro lei mi ha insegnato a fare la parrucchiera. Ci sono tante cose che io mi ricordo, che ho fatto con lei, attraverso lei, quando ero piccola. È stato un po' un privilegio avere una sorella più grande. E so che non lo possono dire tutti. Invece noi abbiamo sempre avuto un buon rapporto. E siamo molto diverse, come carattere siamo quasi opposte proprio. Però abbiamo dei valori uguali alla fine, cioè in fondo alla fine si arriva più o meno alla stessa posta. Più il tempo passa, più quella spinta che Elisa sente dentro di sé si fa largo, mettendo a dura prova la proverbiale timidezza della ragazza. Si passa dalla band rock e blues messa su con gli amici di paese alle serate di piano bar a zeppe di cover, nelle quali la sua voce finisce sempre per impressionare e raccogliere consensi. La musica riesce nella sua magia, allargando il suo potere ipnotico sulla ragazza e stimolandone le produzioni. Fino a che, come è prevedibile, un bivio non le si para davanti. Quando cantavo io avevo più o meno 20 anni e cantavo per l'Italia, ho cantato in tutti i luoghi, province, città, e avevo un grande pubblico. E tra questo pubblico c'erano bambini, c'erano ragazzi, ragazze, papà, mamme, c'erano dei nonni e soprattutto io piacevo moltissimo alle nonne. Voi dovete sapere che io avevo una nonna molto speciale. Mi diceva: Caterina, ricordati che ogni tanto bisogna anche rischiare nella vita. Chi non risica veramente, non rosica. Caterina Caselli di musica se ne occupa praticamente da quando ha cominciato a respirare. Prima giovane rivelazione, scatenata dall'entusiasmo beat che travolge l'Italia durante gli anni 60. Poi cantante matura e consapevole, in preda a riflessioni più profonde e commistioni tra generi e persone. Infine, produttrice e discografica in cerca di talenti nuovi ed emergenti. Una piroetta lunga una vita che non ha ancora smesso di girare vorticosamente. Sarà lei a decidere il destino di Elisa. La ragazza, infatti, ha deciso di sottoporsi a un provino. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. La verità di infamare lo so. Lo so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più. La verità di infamare lo so. Quando incontro un talento, io mi innamoro, ma proprio perdo la testa e vado giù proprio con tutta la mia forza, perché il talento deve essere di tutti. E allora rischio anche umanamente. A volte ho delle grosse delusioni, ma a volte ho delle grandi soddisfazioni. Strana la vita a volte. Caterina Caselli, il caschetto d'oro che cantava Nessuno mi può giudicare, è passata dall'altra parte della barricata a selezionare e a mettere sotto esame nuovi talenti. A volte i cambiamenti risultano difficili, obbligati, pieni di variabili e fattori che intervengono rendendoli complicati. A volte, come nel caso di Caterina, sono figlie di un semplice ragionamento, di una pura constatazione. Per provare, per vedere se ero capace di imparare un nuovo lavoro, utilizzando un po' dell'esperienza anche che avevo accumulato come cantante, pensavo fra me e me, forse sono in grado di capire meglio gli artisti, avendo fatto questo lavoro prima. Le strade di Caterina Caselli ed Elisa, come abbiamo detto, si incrociano nel modo più naturale, durante un provino. I provini sono la dannazione di ogni aspirante artista. La tensione è palpabile, tutto quello che sta intorno sembra fatto apposta per torturare il proprio agio. E poi ci sono le persone, quelle persone che non ti conoscono e non sanno nulla di te o comunque poco, ma sono pronte a giudicarti, a puntare il dito, a decidere se meriti di fare quello che vorresti fare. Ci vuole coraggio durante i provini, ci vuole consapevolezza. Elisa è decisa a metterci entrambi. In testa ha la sua musica e il resto del corpo è sintonizzato. Io ero partita da Monfalcone con la mia band che era, erano tutti i miei amici, sono ancora gli stessi con cui sono oggi. Mi ricordo che poi a un certo punto per una canzone dovevo suonare il pianoforte e mi sono tipo tolta le scarpe perché avevo paura che di non riuscire bene per i pedali. E le ho proprio tolte, però è un bel ricordo. To be alone, silence would rock my tears, 'cause it's all about love and I. Riesce difficile capire se sia stata una folgorazione o una mera presa di coscienza. Dopo aver ascoltato Elisa cantare, niente sembra più scontato che ammettere che la ragazza ha talento ed è dotata di una voce fuori del comune. Eppure la storia del mestiere di discografico è piena di abbagli e di fischi presi per fiaschi. C'è qualcosa, oltre al timbro e al suono che scuote la Caselli, mentre osserva quella ragazza timida suonare il piano senza le scarpe. Qualcosa di familiare, qualcosa che qualcuno aveva visto in lei. Era assolutamente naturale, assolutamente senza nessun sussiego, quello che io chiamo il sussiego quando si accende la telecamera e tu devi fare cantare proprio con la passione, col cuore. Quindi i motivi del successo di Caterina sono anche dovuti alla sua spontaneità, alla sua grande semplicità. Questa era la sua grande qualità, oltre alla sua musicalità, come ha riconosciuto anche Paolo Conte. Parola di Renzo Arbore, una vecchia volpe che ha passato la vita tra le pieghe della musica e dello show. Le qualità che il Mattatore foggiano attribuisce alla Caselli potrebbero calzare perfettamente anche addosso a Elisa. Spontaneità e semplicità. Forse sono questi gli elementi che fanno scattare in Caterina una molla. È probabile che riveda nella giovane la stessa naturalezza che ha caratterizzato la sua scelta di fare musica. O forse è quel rock adagiato su una voce così dolce che gli dà un'impronta unica. Quale che sia il punto di partenza, la conclusione è che per questa ragazza vale la pena andare giù con forza, come dice lei. Accade tutto un po' in fretta, con quella sensazione che qualcosa di surreale stia accadendo che accompagna certi cambiamenti repentini. Davanti agli occhi di Elisa si spalanca un mondo completamente nuovo. Mi ricordo che c'era un'attenzione da parte della casa discografica ai dettagli, che era proprio a me sconosciuta, cioè il vestito... La scarpa, come i colori, tante cose proprio che io non capivo, essendo proprio sì, completamente immersa un po' in un mondo solo musicale, cioè, ed ero molto così un po' scioccata, così che mi guardavo intorno e sentivo tutte queste voci. Però ero molto concentrata dentro le mie cose, anzi forse, cioè, non so se dire anche troppo, però sì, appunto, magari all'esterno risultavo molto chiusa. È comprensibile un po' di scombussolamento dopo che la tua vita svolta, cambia direzione e nuovi orizzonti si piazzano davanti al tuo naso. Nulla che il tempo non possa risolvere comunque. Il progetto Elisa ha tutte le caratteristiche per riuscire. C'è la forza dirompente del talento grezzo da plasmare e una gran voglia di lavorare da parte di tutti. Ma c'è un dettaglio che nessuno aveva considerato. L'amore è quello vero, non esiste più. Dopo l'improvviso. guardo te, io sono bugiarda, l'amore c'è, è dentro di me. I tempi cambiano. Deve essere una delle considerazioni che fa più capolino nella testa della Caselli quando si mette a lavorare con Elisa. Caterina, come avete sentito, arriva da una generazione che catturava il sound americano-inglese per poi tramutarlo in una creatura propria. Sono molte le hit dell'epoca tradotte e cantate nella nostra lingua, forse per motivi commerciali o magari per spirito campanilistico, chi lo sa. Ora, davanti a sé ha una ragazza che scrive e canta in inglese, perché ha sempre fatto così e non vorrebbe cambiare. Ma non per arroganza o per una stupida paura che le circola nelle vene, semplicemente perché è in quella lingua che le sue parole si trasformano in musica. È tanto naturale per me cantare in inglese, anche quando magari voglio esprimere un concetto, magari non conosco bene tutte le parole per farlo. Adesso man mano negli anni sempre meno, però comunque non è la mia lingua madre. E questo io lo sento, lo so. Eppure ho proprio nonchalance, cioè prendo il vocabolario, mi metto, perché mi piace tanto, mi piace come suona, la lingua che a me sembra la più musicale proprio. La questione della lingua braccherà Elisa per molti anni a venire. Una questione per certi versi fondata, ma che spesso travalicherà il suo ruolo, innescando un dibattito che non sempre porterà materiale utile. A guardare bene, infatti, il timore sembra affiorare più tra l'entourage che le sta intorno piuttosto che in lei. La cantante di Monfalcone è concentrata, come lei stessa ricorda, immersa nella sua musica, attenta a non farsi trascinare troppo dai flash che tentano di abbagliarla. Al suo fianco c'è l'eterna Caterina, che può pensarla in maniera diversa, ma che porta con sé la saggezza e l'esperienza necessarie per permettere a Elisa di portare avanti il suo sogno. Basterà un tocco di follia un po' distorta e il viaggio potrà cominciare. I magnifici destini è sulle tracce di un fiore che si sta schiudendo pian piano, con la grazia e la dolcezza che lo contraddistinguono. È un fiore che di nome fa Elisa, giovane e timida ragazza di Monfalcone, in possesso di una voce incantevole e di un bagaglio rock e blues pieno di adesivi del suo Friuli. L'incontro con Caterina Caselli le ha aperto le porte della discografia, dandole l'opportunità di allargare il suo pubblico fino a quel momento limitato agli amici, alla gente della sua città e poco di più. Per Elisa è un tuffo in un mondo nuovo e sconosciuto, che la costringerà a fare i conti con il suo carattere. Sì, è stato strano, difficile riuscire a capire le dinamiche di come si muovono e come parlano soprattutto le persone in un ambiente, cioè in un ambiente dove sono più o meno tutti già inseriti o comunque sanno cosa stanno facendo, cosa stanno dicendo, e il più delle volte sono persone comunque adulte. E, probabilmente penso anche che veniva dal fatto che magari io prima avevo fatto comunque una vita, per esempio, non molto sociale, ecco, quindi se avevo lavorato in un salone di parrucchiera poi per 4 anni, ecco, quello penso che era il massimo del sociale, sono della socialità. Il mucchio di persone che le gira intorno non è l'unico problema che la giovane cantante deve affrontare. C'è una questione che sta rosicchiando le certezze, su cui incombe una decisione definitiva. Elisa vuole incidere un album in inglese, mentre la Caselli e il suo entourage sembrano più prudenti al riguardo. C'è bisogno di qualcosa o qualcuno che intervenga dall'esterno per sbloccare la situazione, come un colpo bene assestato sul manico della chitarra che dà inizio all'assolo. La vita di Corrado Rustici è cambiata quando ha sentito per la prima volta John McLaughlin e la Mahavishnu Orchestra. Fino a quel momento era un chitarrista in fasce, con molte idee confuse sparse tra la testa e la tastiera. Poi l'ascolto di questa band, il loro jazz combinato al rock e al fusion, gli arrangiamenti mai sentiti prima, le innovazioni e tutti quei grandi musicisti che suonano insieme. Improvvisamente le nubi si diradano e la musica e la vita prendono forma in Corrado. Per lui inizierà un viaggio sia fisico che spirituale, che lo porterà all'altro capo del mondo, la West Coast americana, per collaborare con gente del calibro di Herbie Hancock, George Benson, Aretha Franklin, Whitney Houston. In testa c'è un obiettivo, o perlomeno un punto di partenza, come dice lui. La musica per me È lo sforzo di trovare il punto di partenza, il proprio punto di partenza, in questo caso il mio, musicale, che inizia dove finisce quello degli altri. Corrado è uno che sa il fatto suo, si sente da come parla. A metà degli anni Ottanta, con un bagaglio di esperienze consistente, Rustici scopre l'elettronica, un altro colpo di fulmine che gli cambia la vita, mentre continua la sua lunga spola con gli Stati Uniti per dedicarsi con maggiore intensità al suo ruolo di musicista a 360 gradi, che interviene in tutti i passaggi della produzione. Il sodalizio più importante avverrà con Zucchero, ma questo non gli impedirà di collaborare con altri grandi nomi del panorama italiano. Ed è proprio durante questo girovagare continuo che il chitarrista napoletano si imbatterà nella timida Elisa. Corrado percepisce la situazione di impasse che sta vivendo la cantante e col benestare della Caselli decide di portarla con sé in America, a Berkeley. Sarà lui a produrre il disco. Le canzoni saranno registrate rigorosamente in inglese. In un attimo tutti i dubbi vengono spazzati via. Siamo nel 1997 ed Elisa fa il suo ingresso trionfale nella discografia italiana. Esce Pipes and Flowers ed è un esordio con i fiocchi. L'album passa all'esame della critica e ascoltatori, impressionando per qualità e compattezza, riuscendo ad amalgamare in maniera perfetta la purezza della voce della cantante con le sonorità rock che graffiano la struttura dei pezzi. Oltre a conquistare il pubblico, Elisa vince la sua scommessa, riuscendo a farsi apprezzare nel territorio italiano nonostante un disco cantato in un'altra lingua. Merito di Corrado Rustici, del suo fiuto e di quel suo animo nomade che da sempre lo guida nelle scelte. Io purtroppo sono un animale strano perché sono nato in Italia, però all'età di 18 anni sono andato via, per cui ho vissuto più della metà della mia vita fuori e non mi sento né americano, né inglese, né italiano. Ed ho tutta una serie di punti di riferimento che, come nella vita, ognuno prende, attinge, usa e fa. Rotto il ghiaccio, davanti a Elisa si spalanca un mondo. Ora la cantante ha la consapevolezza del valore della sua musica e può esplorare tutto ciò che le capita a tiro. C'è, nel periodo che seguirà l'album di esordio, l'inizio di un processo che la porterà piano piano a intraprendere nuove strade e a maturare il suo nuovo mestiere. Quello che prima sembrava un ambiente ostile o comunque sconosciuto è diventato un punto di riferimento dove poter attingere per arricchirsi sia a livello personale che professionale. Ho trovato tante persone con cui ho anche ancora adesso dei rapporti di amicizia veramente anche profondi, ma un po' alcuni dentro la casa discografica che proprio mi hanno insegnato tantissime cose, sono stati come dei maestri per me, maestri e maestre insomma. Più i mesi trascorrono, più Elisa, metaforicamente parlando, sembra assomigliare a una mongolfiera. Alleggerita dalle zavorre gettate via, la cantante è libera di alzarsi verso il cielo, osservando dall'alto ciò che prima limitava la sua vista. Nel 2000 esce il suo secondo album, Azile's World, il cui titolo altro non è che il nome di Elisa stesso letto al contrario. Il disco è diverso dal precedente, a conferma di un'esplorazione che la cantante di Monfalcone ha iniziato e intende portare avanti. L'elettronica, l'introspezione e le ambientazioni oniriche si sostituiscono al rock del primo album, mettendo in mostra la voglia di sperimentare. C'è qualche difficoltà per questa nuova produzione che vede molti nomi coinvolti, ma qualche intoppo non preclude il risultato, né tantomeno il percorso. A me piace essere positiva e mi piace rispondere con ancora più positività, ancora più ottimismo. È proprio perseverare fino alla morte per riuscire a cambiare in meglio le cose, cioè pensare che anche una piccola cosa veramente fa la differenza, è un modo di ragionare che alla fine porta delle cose belle, insomma. Senso di te. Essere puntigliosa e concentrata è un'altra delle caratteristiche di Elisa. Chiunque abbia lavorato con lei non ha potuto che apprezzare la serietà e l'attenzione con cui la cantante si dedica al suo mestiere. Qualità che crescono insieme al passare del tempo e all'esperienza. Quando il secondo millennio fa capolino, Elisa è oramai una musicista affermata in Italia, e non solo. Grazie all'intervento della Caselli prima e di Rustici poi, ora la cantante è libera di fondere il proprio straordinario mondo interiore con la musica che pubblica per la gioia degli ascoltatori e magari trovare il tempo di togliersi anche qualche sassolino. Emozionata? Sì. Devi dire grazie a qualcuno? Alla vita, a tutti, alla vita. Non è mai capitato pubblicamente di vedere Elisa arrabbiata per qualcosa o di sentirla rispondere a tono a una cattiveria o a una provocazione. E potremmo scommettere che non succederà mai, non è da lei. Ecco perché quando nel 2001 vince Sanremo con una canzone scritta in italiano, dopo le solite insistenti domande sulla sua idiosincrasia a comporre nella nostra lingua, Elisa è raggiante e sorridente come non mai. Non c'è tempo né la voglia di occuparsi degli scocciatori, c'è solo la voglia di festeggiare. E davanti una luce che abbaglia. I magnifici destini. Una cosa di cui sono contenta è la concentrazione che mi sta crescendo con il tempo sempre di più, e questo mi aiuta ad entrare proprio dentro la musica, quindi sì, nel canto soprattutto. Non c'è modo di distogliere dal suo intento Elisa, non c'è modo davvero. Concentrata, felice, ispirata, le note del suo pentagramma non hanno traccia di esitazioni. Corrado Rustici è alle sue spalle, sempre preso dalle sue sperimentazioni, ma con un occhio costantemente puntato sulla giovane musicista. C'è un terreno comune che permette ai due di costruire qualcosa. Cioè, almeno l'esperienza che ho avuto io con Corrado è stata di lavorare sempre ad andare ad arricchire una cosa che c'è. L'arricchimento è composto da tutti quegli elementi che finiscono per attirare l'attenzione di entrambi. L'elettronica, la musica ambient e il rock sono il collante che tengono impegnati insieme elementi di questi due artisti, ma non sono il solo. Corrado ormai è una specie di guru che sforna un successo dopo l'altro, sia esso una produzione, un arrangiamento o una collaborazione attiva. Merito della sua sete di conoscenza che lo ha portato in giro per il mondo. È normale che Elisa finisca per ricalcarne le orme in qualche modo. Per Elisa, la decisione di affacciarsi a un pubblico nuovo arriva dopo un po' di anni passati a misurarsi e a cercare intese con altri artisti. Un duetto con Tina Turner, un disco messo su insieme a Glenn Ballard, il produttore di Alanis Morissette, e poi tante collaborazioni italiane, con Bocelli, i Tiro Mancino, gli Avion Travel. C'è pure il cinema tra i progetti che hanno successo, con la cover di Almeno tu nell'universo di Mia Martini, che suggella il film di Gabriele Muccino Ricordati di me. Nasce quindi l'esigenza di misurarsi con un altro ambiente, ed è con questo spirito che l'album Dancing e il successivo tour nel nord dell'America prendono vita. Quell'America che già aveva provveduto ad accogliere Rustici, il quale, senza esitare neanche per un attimo, decide di sedersi nella solita poltrona da produttore. C'è ancora spazio per allargare gli orizzonti. D'altra parte, è questa la molla che accompagna spesso i musicisti, quelli bravi, si intende, sempre pronti a mettere fieno nuovo in cascina. È come una pulsione che non si riesce a frenare. Vale anche per Elisa, naturalmente, che terminata l'avventura americana può finalmente ricongiungersi a chi stava inseguendo da anni. Con Giuliano è stato un po' cioè abbiamo un po' incoronato un sogno che avevamo entrambi di collaborare insieme, perché da anni siamo amici e abbiamo ascoltato varie volte i demo, insomma, dei Negramaro, e loro hanno sentito i miei, e abbiamo suonato nelle jam session di notte in giro nei locali. Ci mancava un po' solo di, fra virgolette, ufficializzare quello che già esisteva. C'è ancora Caterina Caselli che supervisiona. C'è ancora Corrado Rustici che lavora ai fianchi. Il percorso di Elisa, più che a una strada, assomiglia a un cerchio che ogni tanto si richiude. La verità è che per trovare un senso non sempre è necessario un gran traffico di idee e voci. Bastano pochi concetti a volte, pochi nomi ben conosciuti, persone di cui fidarsi o con cui misurarsi. Ecco come nasce la collaborazione con i Negramaro, in particolare con Giuliano Sangiorgi, con la speranza di fondere, visto che è Elisa la prima ad ammettere che il brano è stato scritto per essere cantato da lui. E la fusione altro non è che l'unione di due voci dal timbro inconfondibile. Eh sì, avevamo visto giusto. A rivederla bene, la storia di Elisa ha tutti gli elementi che caratterizzano le favole. Una ragazza semplice e timida che scorazza per il suo paese con una chitarra in mano, gli amici, la musica e poco altro. Una fata dal casco d'oro che le appare come in un sogno e le parla di un mondo dove sarebbe felice e farebbe felici gli altri. E poi un grillo parlante con tanto di chitarra ed effetti che l'accompagna durante il viaggio, strappandola ai dubbi e alle incertezze. Infine qualche amico incontrato lungo il tragitto con cui condividere momenti e sensazioni. Beh, non c'è male davvero. Siamo curiosi di capire cosa ci sarà dopo. Per me è importante cercare di rimanere me stessa indipendentemente da dove vado e cosa faccio. E se questo mondo che mi circonda richiede più parole, proverò a tirarle fuori.